Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. La professoressa Francheo è attorno ai 40. Stupenda, altera e bellissima. Capelli neri, cotonati come un leone. Cattiva come una merda. Siamo tutti mezzi innamorati e del tutto terrorizzati da lei. È un po' come amare il proprio boia. Mi chiamo Massimo Neriotti, ho 49 anni, abito a Torino, faccio il dentista per i cavalli. Mi piace moltissimo cucinare, mi piace moltissimo viaggiare in moto. Se io fossi un ascoltatore di questo programma e avessi voglia di parteciparci scrivendo un piccolo episodio della mia vita, credo che ieri sera o ieri notte mi sarei messo lì e avrei scritto una pagina su quello che mi è successo ieri sera al cinema, che non è veramente niente di che, ed è per questo poi che in realtà mi piacciono particolarmente i racconti che arrivano qui al programma, che raccontano piccoli episodi, che sembrano voler dire poco e forse non vogliono dire niente, non lo so, però in mezzo in realtà ci cogli sempre qualcosa di più. E l'episodio è stato semplicissimo. Ero al cinema a vedere un film che si chiama Paradiso Amaro, perché qualche genio ha deciso di tradurlo così, anche se in inglese si chiama The Descendant. Parla di una famiglia che semplicemente sta per vendere dei terreni e diventerà ricchissima e vive all'Hawaii. Però siccome sono all'Hawaii, quindi è un po' di paradiso, poi c'è una morte in mezzo, una che sta in coma, quindi Paradiso Amaro, via dai, così gli italiani lo capiscono e lo vanno a vedere, come se non bastasse George Clooney per andare a vedere un film. Ma tant'è, chi se ne frega. C'era un signore di fianco a me che ha cominciato a russare molto molto forte al cinema. Eravamo in prima fila, quindi lui non aveva nessuno davanti per dirgli di stare in silenzio e non aveva nessuno di fianco tranne me e la moglie, che però non diceva niente. Ed era quel russare forte, cioè che nei momenti di silenzio, come spesso capita in un film come quello in cui c'è uno che sta in coma, allora ci sono momenti sospesi, niente, era proprio fortissimo e io non ho avuto il coraggio di dire niente. L'ho giusto toccato un po' sul braccio, ma lui era un signore sui 60 e proprio russava con la bocca spalancata, la gente intorno rideva. Non ho avuto il coraggio di fare niente. Ecco, ieri quando sono tornato a casa ho pensato: se io volessi scrivere un racconto per quel programma lì, scriverei questo qua. Sono andato al cinema, ho visto un film che un po' mi è piaciuto, un po' no, ho fatto la coda, sono arrivato e c'era solo la prima fila libera. Prima fila tra l'altro che è una sola, perché mettono le chaise longue, però sono troppo corte e quindi io non ci arrivo con i piedi. E ho beccato sto signore di fianco che, anzi, prima di addormentarsi insultava le donne del film. Le donne, ma sono tutte uguali, va che roba. E poi a un certo punto si è addormentato e non sono nemmeno riuscito di gli scusi, ehi, psst, niente, proprio a metà tra pavidità e affetto per quest'uomo che forse perché guardando quest'uomo pensavo io finirò così, ragazzi, la domenica sera con la moglie a fianco addormentato al cinema, o magari da solo addormentato al cinema. 349-238-6666, questa sarebbe stata la storia che avrei raccontato io, e invece Massimo ha mandato un racconto che è molto divertente, che è molto reale, è un racconto che abbiamo vissuto tutti e che era scritto in maniera magnifica. Infatti credevo facesse questo di mestiere, invece fa il veterinario, fa esattamente il dentista per cavalli. Massimo, c'è il telefono Massimo, vero, dopo, quindi glielo chiedo perché è la prima volta che sento questa cosa. Ed è il racconto di una carognata orribile, una roba che è capitata, credo, di fare, credo, a ciascuno di noi, magari non di proposito, magari perché ci è scappata la mano, magari perché non ce ne siamo accorti. Massimo l'ha fatta alle superiori, era istituto di agraria, quindi era un ragazzino, e l'ha fatta in un modo veramente quasi ridicolo, oltre che infimo. Se vi è capitato mai di fare anche di recente una carognata, oggi è la vostra puntata. 349-238-6666, oppure il profilo Facebook del programma, che è Matteo Caccia, io sono qui. Ma questa che vi sto per raccontare è la più grande e più divertente carognata che io abbia sentito di recente. Lo confesso ora, perché solo ora, a 49 anni, trovo il coraggio di farlo. Avevo 15 anni in quei giorni, fine anni 70. È una mattina qualsiasi, a scuola. Istituto Tecnico Agrario di Stato, Pianezza, Torino. In classe c'è una lezione di non so cosa, io ascolto il professore in attesa dell'intervallo delle 10. Dietro di me è seduto Scagnolari. Scagnolari pesa almeno 100 kg. Scagnolari porta occhiali dalle lenti molto spesse, culi di bicchieri. Scagnolari non ha voglia di studiare ed è ripetente. Scagnolari ha gli occhiali spessi e della vita non vuole seccature. Vuole dormire ad occhi aperti in classe per tutta la mattina. E poi tornare a casa e riprendere a farsi gli affari suoi. Scagnolari si accontenta di poco: mangiare, fumare, e guidare il suo motorino. A scagnolare di tutto il resto non gliene frega niente. Tanto dice che se lo bocciano ancora andrà a lavorare da suo padre. Suona la campanella dell'intervallo, tutti fuori per 10 minuti. Rientro in classe e ciondolo fra i banchi. Tra pochi minuti inizia la lezione della Francheo, scienze. La professoressa Francheo è sui 40, è stupenda, bellissima, altera, algida, capelli neri cotonati come un leone, cattiva come una merda. Siamo tutti mezzi innamorati e del tutto terrorizzati da lei. È un po' come amare il proprio boia. Io della Francheo mi ricordo che era bellissima, ma gelida come un iceberg. Ogni volta che ci toccava andare alla lavagna perché eravamo interrogati, era veramente un bruttissimo momento. Poi c'era una paura terribile, terribile. E lei aveva messo giù un decalogo, per cui quando entrava lei noi dovevamo essere già tutti seduti, col quaderno aperto, il libro aperto, non ci doveva essere una mosca che volasse, e così era. Rientro in classe poco prima che suoni la campanella di fine intervallo. Sto per sedermi al mio posto quando vedo il diario di Scagnolari sul suo banco. Lui è ancora fuori. Prendo il suo diario e ho un attacco da scherzo da prete. Mai avuto prima e mai avuto dopo in tutta la mia vita. Prendo una penna e sulla pagina di quel giorno scrivo a grandi caratteri: la Francheo, professoressa di scienze, è una puttana. Chiudo il diario e lo rimetto al suo posto. Oggi con lei abbiamo solo un'ora e di solito se ha un'ora fa lezione. Nelle ultime 10 volte in un'ora ha sempre fatto lezione. Che va pure bene, eh? Basta stare impietriti a guardarla e seguire parola per parola. Entra la Francheo e si siede alla cattedra. Il resto è fatto di iceberg. Io sono completamente dimentico di quello che ho fatto, tanto oggi spiega. E invece no. Apre la bocca e dice: siamo un po' indietro con i voti. Oggi interrogo. Freddo nelle vene, freddo sulle tempie, freddo nell'aria. Solo freddo e paura reale. Intanto quella bellissima e terrificante donna sta scorrendo il suo dito lungo i nomi. Improvvisamente mi viene in mente che può succedere. Può succedere l'impossibile, l'irreparabile. Adrenalina, paura, tempo sospeso, morte. Il giro alle finestre, la fine di tutto, oltre l'apocalisse. L'Armageddon. Voglio la mamma. Lei ferma il dito, alza gli occhi e dice: Scagnolari! The mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what the mama saw. It was against the law. Seeing me and Julio down by the schoolyard. Io e Scagnolari abbiamo un arresto cardiaco in tandem, simultaneo, senza dircelo. Scagnolari, dai, forza! La Francheo lo guarda da sopra i suoi occhiali e, come sempre, non sorride. È bellissima la Francheo. Se solo adesso non stesse per ammazzare gli ignaro Scagnolari. E poi non so cos'altro possa succedere. Scagnolari è bianco come la neve. 100 chili di neve che si alzano e vanno verso il boia di ghiaccio. Io non ricordo più la prima domanda, non ricordo nemmeno la seconda domanda fatta a Scagnolari. Ricordo che alla terza domanda Scagnolari stava remando come un vogatore ubriaco in mezzo a un mare in tempesta. Remi rotti, scalmi persi, timone andato. Ma Scagnolari si sarebbe fatto capo orni in retromarcia se solo avesse saputo cosa stava per succedere. Vabbè dai Scagnolari, portami il diario. Scagnolari trascina i piedi verso il banco, prende il diario, si gira e lo porta con grigia mestizia alla Francheo. Io ho una paura pazzesca e sono morto. Scagnolari posa il diario sulla cattedra. La Francheo lo prende, lo sfoglia, arriva alla pagina di oggi e legge. Guardo la sua faccia che non cambia espressione. Forse intravedo solo un lieve cambio di colore, una sfumatura che la rende più marmorea, stupenda. La Francheo guarda Scagnolari. Scagnolari guarda la Francheo. Lei non cambia espressione. Gli occhiali sono più umani dei suoi occhi. Lo guarda e dice: Scagnolari, l'hai scritto tu? ma io non l'avevo neanche considerato uno scherzo, era forse una sorta di sfogo perché la tensione c'era quasi tutti i giorni, ma non era né un tentativo di danneggiare il povero Scagnolari, non era neanche uno scherzo, cioè veramente uno scherzo a parete terribile questo, che mi sarebbe piaciuto avere la schiena dritta e un coraggio da leone e dire sì è vero, sono stato io, lui non c'entra niente e adesso affronto tutto quello che devo affrontare. Il fatto è che poi dovevo affrontare anche i miei genitori. Scagnolari, l'hai scritto tu? Ripete la Francheo e porge il diario a Scagnolari. Scagnolari legge e diventa di porcellana, bianco e grigio, trasparente. Gli si crepano le lenti degli occhiali, poi muore anche lui. La Francheo lascia circa 30 secondi alla platea perché la frase entri per bene nel cuore di tutti. Chi l'ha scritto? Scagnolari, perdonami, mi dispiace ancora oggi. Sentiamo tutti la voce della Francheo che dice: la Francheo, professoressa di scienze, è una puttana. Scagno non si sarebbe mai più ripreso. E se ha preso la strada della droga e delle rapine agli uffici postali, come ancora oggi si racconta, io so che è colpa mia. Se non viene fuori chi è stato, tutta la classe subirà una pesante punizione. E in ogni caso ne parlerò con la preside, dice la Francheo. Ora, Scagno, pensaci un attimo. Concedimi un attenuante. Essere uomo a 15 anni, quasi 16, è molto difficile. È impossibile, a meno di essere Zorro o Tex. Lo so, Scagno, in un mondo perfetto, se fossi stato io perfetto, avrei dovuto fare così. Alzarmi in piedi e dire: sono stato io, professoressa, Scagnolari non ne sa nulla. Avrei portato il mio diario e poi sarei salito con la schiena dritta dalla preside. Scagno non ha avuto il coraggio. Cerca di capirmi. Ero troppo impaurito, anche se sono sicuro che tu stavi peggio di me. Tant'è, il colpevole non saltò mai fuori. Scagnolari alla fine dell'anno venne bocciato e il giorno dopo il fattaccio arrivò a scuola con i capelli grigi. Della Francheo ho perso le tracce. Chissà che fine ha fatto. Mi piacerebbe ritrovarla per raccontarle questa storia. Prima però dovrebbe firmarmi una dichiarazione di non belligeranza con valore retroattivo. Io mi beccai due materie a settembre di quell'anno. Forse avrei anche potuto essere promosso a giugno, ma forse non ho studiato abbastanza di proposito. Sì, forse è stato un modo per espiare quel mio peccato. Forse. Ecco, Scagnolari, se tu leggerai questa mia confessione o sentirai questo programma, sappi che a me dispiacque veramente tanto. Ma ebbi molta paura quel giorno e ancora oggi io vorrei porgerti le mie scuse. Peccato che forse sarai ancora in galera, perché si dice che tu sia finito male, delinquente incallito, a causa di un trauma subito a scuola tanti anni fa. Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love, satellite of... Che alla fine il racconto di Massimo è indirizzato a diverse persone, no? È indirizzato un po' a tutti quelli che come lui hanno fatto una carognata. E vabbè, questa è la cosa più semplice, nel senso che quasi tutti l'hanno fatta. Però, in fondo, secondo me, anche le professoresse che sono all'ascolto e che magari hanno vissuto situazioni di questo genere, così si rendono conto di quanto rimanga indelebilmente impresso nella mente di un uomo che oggi ha quasi 50 anni, a distanza di 25, e il ricordo dei loro silenzi o delle loro incazzature anche. Un po', io mi ricordo, la professoressa Ferri per me era così, quando durante un'interrogazione mi chiese cosa c'era scritto sulla tomba delle matrone romane. Ricordo cosa risposi, ma non posso dirlo ora perché sarebbe poco carino. Però è anche indirizzato a tutti gli scagnolari inconsapevoli, quelli che in qualche modo hanno passato un'infanzia difficile nelle scuole per mille motivi, un po' perché sembravano un po' più sfortunati degli altri o perché erano meno estroversi degli altri. Beh, allora sappiate tutti voi che probabilmente il vostro sacrificio non è stato invano. Hanno fatto crescere un uomo forse un pochettino più consapevole di prima. Ed è il caso di Massimo, credo. Pronto, Massimo? Sì, ciao. Ciao, come stai? Tutto bene. Ti ringrazio Massimo per il racconto, ovviamente. Io so che il racconto era molto più lungo e ho dovuto tagliarlo perché il programma dura solo 45 minuti, altrimenti avrei dovuto usare anche lo spazio di Chiedo Asilo e probabilmente un pezzo di Barisoni, non sarebbe stato carino. Però la prima cosa che ti chiedo, a me, guarda, di tutto il tuo racconto è questo passaggio, quando dici: ora Scagno, pensaci, concedimi un attenuante, essere uomo a 15 anni è molto difficile. Ora che ne hai 48, 49 Massimo, quanti? 49, ahimè. 49, com'è che di 49 anni della tua vita, che è una vita tra l'altro anche abbastanza interessante, poi ti racconto il perché alla redazione non sfugge niente, ti viene in mente l'episodio legato a Scagnolari e alla professoressa Francheo? No, perché ogni tanto mi tornava in mente, ha rappresentato un momento terribile della mia vita e insomma non è stata una bella cosa quella che io ho fatto, ma in realtà non è che volessi creargli un danno, perché lui era un bravo Cristo. L'ho fatto così. Certo, come gran parte delle cavolate che si fanno, poi si fanno senza un vero motivo. Però la sfiga ci ha visto benissimo e tutto il resto è successo in maniera incredibile. Io non avrei mai immaginato una cosa simile, ma è successo veramente. E di Scagnolari veramente non abbiamo più tracce o quelle leggende metropolitane su di lui hanno qualcosa di vero? Credo che sia rimasta una leggenda metropolitana. Io di lui non ho più tracce, non so più nulla. E mi piacerebbe dirgli: guarda Scagno, abbi pazienza, ma io non sono fatta a quel tempo a dire sì, sono io e adesso affronto la preside, la sospensione, i miei genitori, eccetera, a schiena dritta, non ce l'avrei mai fatta. Senti, ma quindi è una sorta di incubo ricorrente questo che ti viene in mente? No, perché effettivamente io, insomma, dico, ci sarà, sei della zona di Torino, giusto Massimo? Sì. Ci sarà qualcuno che anche attraverso 4 gradi di separazione riesce ad arrivare a Scagnolari? È un uomo di 49 anni oggi, Scagnolari, giusto? Che potrebbe, sì, fare, circa, sì. Che potrebbe fare quale lavoro? Questo non lo so, non perché so che lui diceva che sarebbe andato a lavorare con suo padre, ma non so che lavoro facesse suo padre, poi magari adesso ne fa un altro, magari fa babinatore ancora in Callisto. Magari sì, vabbè. Oppure invece fa l'insegnante. Non lo comunque so. Se qualcuno avesse traccia di Scagnolari non sarebbe male rintracciarlo. Invece Massimo, veniamo a te, perché la nostra redazione, che poi diciamo la nostra redazione per fare i grossi, ma è semplicemente Margherita Ina, a cui non sfugge niente, ha scoperto, Margherita, che tu sei uno che non è che ti piace solo fare dei giri in moto, fai proprio delle sorte di mini avventure, giusto? Ma sì, una è stata quella della scorsa estate. E cosa hai fatto? Me la racconti. Ho attraversato gli Stati Uniti in moto, però ero da solo e li ho attraversati lungo un percorso di fuoristrada dall'Atlantico al Pacifico. Cioè, nel senso che hai fatto solo fuoristrada? Solo sterrato? Sì, l'80% del percorso era di terra, sabbia, boschi. E quanto ci hai messo, Massimo? 45 giorni. Con che moto l'hai fatta? Un Honda XR 650. E perché? Cioè, scusami, sento che la domanda sembra stupida, perché ho scoperto di poter fare questa cosa già 6 o 7 anni fa, però non è una cosa facile da organizzare e mettere in piedi, perché bisognava comprare la moto è americana, quindi sono sceso giù prima nell'ottobre del 2009 nel 2010 a comprarla. Ho fatto tutte le pratiche burocratiche, l'ho assicurata, eccetera, eccetera, poi sono tornato. Ho finito di preparare il viaggio. Ma scusami, tu hai una famiglia, Massimo? Hai una donna che ti sta vicino e ti supporta? Oppure? No, c'era la donna era prevista nel viaggio, poi però ha fatto altre scelte. E quindi. Quindi adesso tu di fatto sei un dentista per cavalli che vive nel torinese e ha 8 motociclette, leggo qui. Lavoro anche per mantenere le mie moto. Sì, io sono figlio del proibizionismo, i miei genitori non volevano che mi comprassi una moto. E questa è la fine che si fa a tutti i figli che hanno genitori sedicenni. Ti ringrazio moltissimo Massimo, fai buon viaggio per il prossimo viaggio che farai. Grazie ancora. Grazie a te. Ciao, buona giornata. Mi scrivono: ciao Matteo, meno male che tu la trasmissione la conduci e non scrivi i racconti. Voi siete qui. Massimo ci ha mandato la sua foto, che vedo solo adesso, e che è la foto sua, ma potrebbe essere di chiunque, perché è un primo piano, immagino sia un autoscatto. Si vede solo che ha la barba un po' incolta, però poi ha su degli occhiali con le lenti, immagino di vetro, spessissime, finte, per cui gli occhi praticamente non si vedono, sono piccolissimi, e indossa una parrucca con delle mesh. Probabilmente cerca di fare qualcosa tipo, forse vuol fare la nemesi di Scagnolari. Tra l'altro, quello che mi è arrivato che mi ha scritto Margherita a proposito di Massimo, dice: Massimo Nerriotti, conosciuto in Italia come il Polpo. Massimo è un medico veterinario torinese specializzato in dentistica per cavalli, con una profonda passione per i cavalli, le moto e l'America. In sella da quando aveva 14 anni, oggi possiede ben 8 motociclette e dopo essere passato da un rally all'altro durante il corso degli anni, tutti questi rally che gli hanno permesso di apprezzare tutta la bellezza dell'enduro, partirà per gli Stati Uniti. È chiaro che quest'uomo è un uomo profondamente solo, è un uomo che ha la passione per i cavalli e le moto, non c'ha uno straccio di fidanzata, però quantomeno è simpaticissimo. La storia di oggi, come vi dicevo, è la storia di Scagnolari. Mi ha fatto venire in mente un episodio che sicuramente conoscerete tutti, anche perché ho già parlato più volte sia del libro sia del racconto, e credo di averne già tratto delle cose. Il film è Stand By Me, il racconto in realtà si chiama Stagioni Diverse. C'è un personaggio che ricorda Scagnolari, non si chiama Stagioni Diverse il racconto? No, vedo di là in regia arrivano amici che appena dico, sapete quegli amici che sono sempre pronti a dirti guarda che non è esattamente così? Comunque adesso ve lo dico anche, ma avete fatto venire questo dubbio. Il racconto non si chiama Stagioni Diverse, ma si chiama, stai lì Paolino, si chiama L'autunno dell'innocenza, voilà, è la storia dei ragazzini, c'è River Phoenix, avete presente il film. In un passaggio di questo racconto e nel film c'è proprio un personaggio che ricorda Scagnolari, ricorda in realtà una sorta di vendetta di Scagnolari, è un racconto nel racconto e c'è questo personaggio che viene soprannominato, viene chiamato Culo di Lardo, che mette in atto una enorme vendetta nei confronti di tutto il paese e un po' anche nei confronti di Massimo durante una gara di torte di mirtilli. Salirono sul palco uno per uno e si misero dietro un lungo tavolo su cavalletti coperti da una tovaglia di lino. Il tavolo era carico di torte e stava sull'orlo della piattaforma. Sopra la piattaforma, immersa nella luce, una lunga scritta diceva «La grande mangiata di torte di Gretna del 1960». Il sindaco Charbonneau presentò Culo di Lardo. «Un nuovo partecipante alla grande gara di Gretna», disse, «ma uno da cui ci aspettiamo grandi cose in futuro». Il giovane signor David Hogan. Culo di Lardo si prese un grosso scroscio d'applausi mentre il sindaco gli legava il bavaglino. E quando gli applausi si smorzarono, un coro ben esercitato raggiunse il palco. Fateli tutti, Culo di Lardo. Siete pronti? La voce del sindaco rotolò trionfante per il palco e lungo la Main Street. I 5 mangiatori di torte dichiararono che erano pronti. A posto, si informò. Il sindaco alzò la sua mano suina e la lasciò cadere. Via! 5 teste caddero in 5 piatti di torte. Il rumore fu come di 5 piedi che pestassero sodo nel fango. Ma ora perdonatemi, perché devo interrompere un secondo per dirvi che c'era, a casa di Culo di Lardo, nell'armadietto dei medicinali, una boccetta vuota. La boccetta era stata piena per 3/4 di olio di castoro color giallo perla, forse il liquido più nocivo che il buon Dio abbia mai permesso di comparire sulla faccia della terra. Ecco, Culo di Lardo se l'era svuotata lui, quella bottiglia, bevendolo fino all'ultima goccia e poi leccando il bordo, la bocca contratta, lo stomaco in subbuglio, il cervello pieno di pensieri di dolce vendetta. E improvvisamente il momento della vendetta su quel palco fu a portata di mano. Il suo stomaco, caricato al di là del terribile, si rivoltò. Si strinse come una mano infilata in un liscio guanto di gomma. La gola si aprì. Culo di Lardo alzò la testa. Sorrise a Bill Travis con denti blu. Il vomito rombò su per la sua gola come un Peterbilt da 6 tonnellate sparato attraverso un tunnel. Culo di Lardo, ora all'apogeo assoluto della sua giovane vita, gongolava beato sul pubblico. Il vomito era dappertutto, il suo e quello degli altri. La gente barcollava in cerchio come ubriaca, tenendosi la gola e facendo versi strozzati. Il cane pechinese di qualcuno corse oltre il palco, ululando come impazzito, e un uomo in jeans e camicia di seta gli vomitò addosso tutto, quasi annegandolo. Culo di Lardo osservava tutto ciò, il faccione calmo e sorridente, lo stomaco improvvisamente raddolcito e tranquillizzato da un caldo balsamo che forse non avrebbe mai più provato. E quel balsamo era una sensazione di completa e totale soddisfazione. Si alzò, prese il microfono dalle mani tremanti del sindaco e disse: «Io cambio idea su pensi troppo alti. Di Carognate ne ho fatta la più grande di tutte. Ho scritto bastardo con una bomboletta spray sulla fiancata della macchina del mio ex, ma non l'ho fatto subito appena mi ha lasciato, e dopo quasi 2 anni mi sono finta una sua amica e sono riuscita a fargli credere che era stato un suo amico. Che c'è un giro assurdo. Quinta liceo, no, questo no. Se trovassimo Massimo con una mannaia nella schiena, sappiamo chi è stato. Mi sembra un po' eccessivo, però, come vendetta di Scagnolari. E poi qualcuno mi scrive: direi che il racconto ricorda Resurrezione di Tolstoj. Ogni tanto succede che qualche ascoltatore di Radio 3 si intrufola evidentemente ad ascoltare Radio 24 e cita Tolstoj così, come se piovesse. Grazie a Massimo che ha scritto questo messaggio, questo racconto bellissimo, e grazie a tutti quelli che continuano a scriverlo e continuano a farlo. Voi siete qui, @radio24.it. Vedete, basta veramente un piccolo episodio per aprire un mondo. Grazie a Paolino Corleoni, a Tiziano Bonini e a Margherita Ina. La storia di oggi era la storia di Massimo e parlava di Carognate. La storia di domani è la storia di Giovanni e parla di scrivere. E un po' alla volta si fece strada tra i miei pensieri una leggera rabbia contro me stesso. Perché recriminare sul tema svolto? Ormai l'avevo consegnato e non si può dire che non l'avessi riletto e controllato. Ma sì, avevo fatto un bel tema. Inutile ripensarci. E poi, alla peggio, farò meglio il prossimo.